dove stai non lo so, non lo so. Ma ci penso da un po', da un po'. Intanto il tempo passa qua, si e passa. Dove stai non lo so, non lo so. Ma ci penso da un po', da un po'. Intanto il tempo passa qua, si e passa. Shot la notte non sta in branda, va in giro a sfidare la sorte con l'amico Sancho Panza, visionario di un mondo che non esiste, di un torto che non subisce, non si sa contro chi combatta, in sella ad un cavallo di latta, ha giurato di combattere il crimine a spada tratta, ma quella gente con la giacca e cravatta non lo segue, niente vede, lo crede, una testa matta. Don Chisciotte derise in tutta la Mancia, è come se nessuno si accorga della minaccia, già. Ma lui se ne infischia di cosa rischia, sa bene che comanda, suo padre era della banda. Quando sua madre scoprì le sue intenzioni, riempì due vari giorni, gli disse figlio mio scappa. Ma lui non si diede per vinto, partì con tre mulini a vento e iniziò la battaglia. Io voglio andare oltre, vedere cosa c'è oltre al monte. Aprite tutte quelle porte o le spaccherà colpi di docche. È arrivato Don Chisciotte. Io voglio andare oltre, vedere cosa c'è oltre il monte. Aprite tutte quelle porte o le spaccherà colpi di docche. È arrivato Don Chisciotte. Sancho Panza non ha chiaro il piano del compare, ma gli ha promesso fedeltà fino al giorno del suo funerale. Però le cose stanno per cambiare, quelle storie che racconta ora le stanno ad ascoltare. E adesso che amministra il male, si sente minacciato nel suo regno da un malato mentale. Nonostante lo potrebbe fermare, se Don Chisciotte ancora campa è per rispetto del padre. Ma questo non sembra interessare all'errante che ha deciso incurante di continuare. Ha un conto aperto con il mondo criminale e da una radio ora li fa tremare. Io voglio andare oltre, vedere cosa c'è oltre al monte. Aprite tutte quelle porte o le spaccherà colpi di docche. È arrivato Don Chisciotte. Io voglio andare oltre, vedere cosa c'è oltre al monte. Aprite tutte quelle porte o le spaccherà colpi di docche. È arrivato Don Chisciotte. Come ogni cavaliere che si rispetta, di Don Chisciotte oggi ci rimangono le gesta, le imprese malsane di un eroe fuori di testa, che al suo funerale sembrava quasi una festa. La madre non reclama vendetta, piuttosto si aspetta che la gente comprenda che il figlio non è morto per diventare una leggenda, ma per rendere palese una montagna di merda.